Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: Bruxelles che approva la manovra italiana, e questo, di questo parleremo anche nella seconda ora del programma, ma Bruxelles, o meglio l'Europa, o meglio ancora la Banca Centrale Europea, che dice, beh, insomma, occorre rompere l'oligopolio, ossia il monopolio di più persone, delle agenzie di rating, quelle che danno i voti ai debiti sovrani, quelle che declassando, facendo anche il loro dovere, ma declassando Spagna, Portogallo oggi e altri paesi, hanno generato, secondo alcuni, hanno contribuito a generare l'ondata di vendita sui titoli europei, di Stato e non solo. Ebbene, la Banca Centrale Europea dice bisogna rompere questo oligopolio e il loro conflitto di interessi, occorre che vi sia un altro soggetto nel dare i voti agli stati. Non è un tema da poco, perché è innegabile che qualunque manovra finanziaria, anche quella italiana, abbia come obiettivo la tranquillità dei mercati e quindi far sì che non si abbattano sull'Italia, sulla Spagna nel caso spagnolo e via così, vendite, ondate speculative sui titoli di Stato, per cui vanno a crescere i rendimenti, costa molto di più allo Stato italiano trovare sottoscrittori del debito e via discorrendo, né ondate speculative sull'euro. Da sempre il riferimento che viene usato per gli investitori per capire se bisogna vendere un titolo o chiedere un interesse più alto per comprare un debito è l'agenzia di rating, e quindi vorrebbe dire una vera e propria rivoluzione copernicana. Non è un caso che la Banca Centrale Europea questa cosa la dica oggi, dopo che la Cina, a dimostrazione di quella che è una superpotenza già affermata, non in divenire, ha deciso di crearsi la sua agenzia di rating, o meglio, già ce l'aveva, perché la Dagong Global Credit Rating esiste dal 1994, però per la prima volta in assoluto, come agenzia non occidentale, quindi rompendo il monopolio di Standard & Poor's, Moody's e Fitch, ha pubblicato ieri le sue pagelle, quindi i suoi voti sui rischi dei debiti dei vari paesi. E viene fuori dei primi 50 paesi al mondo. Il debito migliore ce l'ha come premio AA+, praticamente la Cina stessa. Però ce l'ha migliore come voto rispetto a quelle che gli vengono riconosciute da Moody's, Standard & Poor's e Fitch, e invece ha assegnato voti inferiori a quelli che vengono assegnati dalle agenzie di rating a paesi come la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone. Praticamente alla Germania ha riconosciuto AA+ e via così. Ma al di là di questo, insomma, la cosa importante è che dopo la Cina, che pure ha espresso i giudizi così, un po' come certi arbitri, un po' troppo condiscendenti verso se stessa, però si va a rompere quello che è un monopolio, e che secondo alcuni è anche un monopolio in grande conflitto di interesse, perché poi racconteremo chi sono i soci delle varie agenzie di rating, che ci sono anche fondi importanti di investimento che magari potrebbero avere così un interesse nel vedere avallate le loro azioni anche dall'ufficialità delle agenzie che danno i voti. Tema delicatissimo che cambia il mondo, però, perché cambia anche il modo in cui si è giudicati. È come se, diciamo, nel calcio, invece che avere un arbitro e due guardialine, si introducesse un terzo guardialine o un secondo arbitro, per dare un esempio un po' forzato. 349-238-6666 per i vostri sms, di questo parleremo in apertura, poi anche degli italiani la crisi. Parleremo poi dei mercati che vanno benino, ieri sentivo dei titoli di TG che dicevano molto bene le borse, ma oggi vanno bene, ieri andavano benino, più 1,5% Milano, più 1,7% Francoforte, più 1,7% Parigi, più 1,80% Londra, più 1,40% l'America. L'euro è in recupero ulteriore a 1,27%, nonostante oggi un'agenzia di rating di quelle ufficiali, e mi riferisco a Moody's, ha abbassato il voto sul debito del Portogallo. I mercati non ne hanno risentito molto bene. Oggi di nuovo Fiat più 3,3%, Buzzi Unicem più 3,1%, Luxottica più 2,5%, Prismian più 2,2%, Finmeccanica più 2,1%, Ansaldo più 2,1%, Italcementi più 2%, come per Mediaset e Parmalat, ma anche Steam Microelectronics. L'1,90% lo guadagna Campari e CIR, ma anche Intesa San Paolo. L'1,80% è il rialzo di Telecom Italia e di UbiBanca, ma anche della Popolare di Milano. L'1,7% lo guadagna Saipem, l'1,6% Pirelli, e anche Bulgari, ma 1,5% è il rialzo di A2A ed Enel, e anche Tenaris. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo subito con le altre notizie in breve. Allora, petrolio come sempre, petrolio, 76,2 dollari al barile. Nel frattempo, sempre sulla crisi, la Banca Centrale Europea ha drenato, vuol dire che ha ritirato, tutti i 60 miliardi di euro di liquidità previsti attraverso un'operazione effettuata oggi per sterilizzare in sostanza gli acquisti di titoli governativi sul mercato secondario. Volete sapere come viene giudicata l'Italia? Poi ve lo diremo dall'agenzia di rating cinese. Avete ragione. Torniamo sul tema aperto ieri da Alessandro Profumo in un'intervista al Financial Times, della necessità, secondo Profumo, di avere un fondo di banche, un fondo privato delle banche europee in caso di crisi o di non tenuta del sistema, in caso che qualche banca fallisse. 20 miliardi di euro era la cifra a cui pensava nell'intervista del Financial Times ieri Alessandro Profumo. E oggi su questo è intervenuto Corrado Passera, quindi l'altro numero uno dell'altra grande banca italiana, amministratore delegato di Intesa San Paolo, a margine del forum Euromediterraneo. Così ha commentato la proposta di Profumo al microfono della nostra Anna Marino. Io credo che per quella proposta di Barnier di avere fondi di garanzia dei depositi in tutti i paesi europei molto forti, molto solidi e armonizzati sia un'idea molto corretta che va perseguita. Poi ci sono i fondi cosiddetti di salvataggio, i Resolution Funds, credo che abbiano più svantaggi che vantaggi. Questo è un recovery plan, recovery fund, bisogna capire fino in fondo le caratteristiche, probabilmente vale la pena di approfondirle. Da quel che ho capito non è tanto un fondo per banche con problemi di solvibilità, ma solo con problemi di liquidità. Qui bisogna anche capire che forse è un ruolo più da banche centrali, però se ne può approfondire. Se fosse un fondo di salvataggio, io credo che sarebbero più gli svantaggi che i vantaggi. Fondi di salvataggio a livello globale rischierebbero paradossalmente di far sì che le banche prudenti si dovrebbero prendere cura delle banche che si comportano in maniera meno responsabile. La dimensione comunque di questi fondi dovrebbe essere di tale entità da essere difficilmente accumulabile. Sicuramente sì, fondi di garanzia dei depositi. Secondo me no ai fondi di salvataggio di Resolution. Approfondiamo di questa nuova modalità di fondo, anche se mi sembra che tenda ad assomigliare a un fondo di risoluzione, quindi di salvataggio. Così Corrado Passera. Un attimo, vedo alcuni che scrivono al 349-238-6666. Vogliamo parlare del nuovo record del debito pubblico? Certo che ne parliamo, un attimo ancora. Volete sapere come ci giudica l'agenzia di rating di voti cinese, quella che insomma vuole spaccare l'oligopolio delle tre sorelle? Giudica l'Italia con un A meno, cioè ci mette nella stessa lista di Spagna, Portogallo, Brasile e Russia, che non è una bella cosa, però questo è il voto che ci danno i cinesi quanto a tenuta del debito. Ancora, come sono andate le obbligazioni greche? Ieri abbiamo anticipato che c'era un'asta importante, sottoscritta al tasso del 4,65%. Per cui una richiesta di 3,6 miliardi, buona la, sia la, il tasso che la richiesta. Allora, volevate sapere del debito, adesso ci arriviamo anche poi con il nostro ospite, però insomma il debito ha toccato un nuovo record a maggio e questa non è una bella notizia, 1.827 miliardi di euro, 1.827 miliardi di euro è il debito italiano, il più grande in Europa, il terzo al mondo e quindi, vabbè, ha fatto una, la cosa importante è la percentuale di crescita, è il 3,7%, cioè da fine 2009 abbiamo imbarcato altri 66 miliardi di debito. Allora, i tassi di interesse sono bassi, probabilmente qualcosa in più sui rendimenti delle obbligazioni, però c'è qualcosa che non torna e io lo dico con massima neutralità, ma evidentemente qua la spesa corrente continua a non essere sotto controllo. Io ripeto sempre il dato per non buttarla sempre in politica, insomma dal 2000 al 2009 e quindi due governi Berlusconi, un governo Prodi con diversi tempi, la spesa della pubblica amministrazione, quindi la spesa per lo Stato, è passata da 500 miliardi di euro a 830 miliardi di euro, alla faccia dei tagli, del giro di vite e di quant'altro. La buona notizia parziale è che è aumentato... sono aumentate le entrate fiscali a maggio più 0,7%. Tra gennaio e maggio però le entrate fiscali sono calate dell'1,3%, quindi c'è stato a maggio un andamento migliore rispetto ai primi quattro mesi, però insomma il calo delle entrate fiscali è netto. E ancora, per quello che riguarda sempre il sommerso, e qui ci sono dati interessanti che arrivano oggi dall'Istat. Perché? Perché nel 2008 il valore aggiunto prodotto dal sommerso, dal nero, è stato compreso tra un minimo di 255 e un massimo di 275 miliardi di euro. Il peso dell'economia sommersa è tra il 16 e il 17,5% del PIL, era più alto nel 2000, era tra il 18 e il 19%. La quota del sommerso ha raggiunto il picco più alto nel 2001, 19,7%, poi è decresciuta fino al 2007, 17%, e poi ha mostrato segnali di ripresa nel 2008. E ancora, per quello che riguarda la parte più rilevante del fenomeno dell'economia sommersa, è la sottodichiarazione del fatturato e il rigonfiamento dei costi impiegati nel processo di produzione del reddito. In sostanza si denuncia meno di quello che si fattura e si aumentano oltre ogni verosimiglianza i costi ottenuti. L'evasione fiscale è più diffusa nei settori dell'agricoltura e dei servizi, dice l'ISET, ma è rilevante anche nel settore industriale se si considera la sola economia di mercato, cioè senza il valore aggiunto. E allora il lavoro nero, che insomma, spesso purtroppo va di pari passo anche con il sommerso, non sempre, ma insomma. Allora, il 12,2% del lavoro in Italia è in nero ed è paradossalmente aumentato perché, essendo calata l'occupazione legale, quella in nero non è calata e quindi la quota percentuale in percentuale è aumentata. È chiaro, anzi, che alcuni sono stati spinti nel nero e comunque il nero nei momenti di crisi purtroppo tende ad essere una risposta da parte delle aziende. E poi il rapporto del Censis, poi ne parleremo più avanti, sono 2.400.000 le famiglie che ricorrono alle colf, ai collaboratori domestici. Pensate che è un esercito, praticamente è aumentato grazie anche alla regolarizzazione di 50.000 unità solo nel 2009, Però insomma 2.400.000 famiglie si avvalgono dei collaboratori domestici, che in moltissimi casi, lo sapete, sono immigrati, extracomunitari. E lavoratore domestico è donna, giovane, immigrata, questo è il suo profilo. Il 71% dei collaboratori è composto da stranieri, la provenienza però è in prevalenza europea. Romania 20%, Ucraina 10%, Polonia 7%, Moldavia 6%, numerosi filippini 9%, 8 su 10 sono donne. Allora, adesso poi parleremo di altri temi, tra cui la Tirrenia, il flop della privatizzazione. Non si riesce a privatizzare la Tirrenia, l'unica che la vuole della regione Sicilia. Ha parlato di flop lo stesso vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas. C'è un piano B, una gara sulle rotte, ma insomma su questo insomma, staremo a vedere. Parliamo del primo tema, ossia le agenzie di rating. Agenzie di rating, ma anche il debito italiano. Parliamone con chi a suo tempo su Sole 24 Ore le difese, tra virgolette, disse che tutta la polemica sulle agenzie che davano i voti erano falsi bersagli, era la politica che voleva in sostanza avere un arbitro compiacente, un arbitro che dicesse che le cose vanno bene. E ne parliamo con Roberto Perotti, che insegna macroeconomia alla Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Dunque, alcuni ascoltatori già scrivono, ma insomma con Prodi il debito era diminuito. Sì, è vero, la percentuale di debito sul PIL era calata, poi è ripresa a crescere, devo dire, va detto, soprattutto per effetto della crisi economica, ma insomma è così, alcune manovre, la manovra che noi anche criticammo nelle modalità di Padoa-Schioppa da 40 miliardi di euro portò come vantaggio sicuramente una riduzione del debito. Allora, professor Perotti, prima di arrivare alle agenzie di rating, vuole darmi un commento sul debito italiano che a maggio ha toccato un altro record, la Banca d'Italia, più 3,7%. Insomma, ha fatto abbiamo imbarcato 66 miliardi di debito in più solo da gennaio a luglio. C'è qualcosa che non torna? Secondo me il debito va giudicato un po' sul trend più che sulle oscillazioni di pochi mesi qua e là, anche perché gran parte di questa oscillazione in questo periodo è dovuta all'andamento del PIL, insomma è una componente non sotto il controllo del governo. Secondo me il modo migliore di giudicare il debito è quello di mettersi la prospettiva di un marziano che venisse da Marte e che guardasse questo grafico degli ultimi 15 anni. Se guarda il grafico del debito o della spesa pubblica, che forse è l'indicatore più importante, sul PIL più o meno è rimasto invariato, con qualche variazione di 1-2 punti percentuali qua e là, ma insomma non è che sia cambiata molto. Quindi lei non è spaventato da una spesa pubblica che valeva 500 miliardi di euro nel 2000 e ne vale 830 nel 2009? No, non sono più spaventato adesso che nel 2000. Quello che voglio dire è che indipendentemente dai governi centro-sinistra e centro-destra più o meno si è mantenuto stabile, nessuno è riuscito a fare molto, cioè non è che non sono spaventato quanto lo ero prima. Sì, tra l'altro vedo che molti riprendono quanto il Sole 24 Ore ha scritto qualche giorno fa, un pezzo di Roberto Galullo, i costi della corruzione, tema molto attuale mi sembra. Oddio, semmai non è stato in questo paese, i costi della corruzione si calcola che valgano 50 miliardi di euro, e anche qui stiamo parlando di un paio di manovre finanziarie, e attenzione a dire che poi tanto il corrotto spende, non è vero, magari metti i soldi in Svizzera, magari si compra una barca e la tiene a Monte Carlo, qui resta molto poco, un po' il ragionamento che si faceva con la criminalità organizzata per poi scoprire che la criminalità organizzata non produce nessuna ricchezza. Allora andiamo avanti invece con le agenzie di rating. Ieri la Cina ha sparigliato le carte e ha detto adesso ci mettiamo anche noi con la nostra agenzia a dare voti agli altri paesi, e ne è venuta fuori una classifica in cui i paesi emergenti vengono messi un po' meglio di quanto non lo siano da Moody's, Standard & Poor's e Fitch, l'Italia e altri paesi un po' peggio. Senti, e poi oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto è opportuno porre fine all'oligopolio globale delle tre agenzie di rating. Hanno un impatto prociclico, vuol dire che tendono a amplificare i fenomeni, verso l'alto, verso il basso dei mercati finanziari. E poi c'è anche un principio di conflitto di interesse. Sentiamo il commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn, al termine del vertice Ecofin di oggi. We don't normally comment on the rating agencies movements. Normalmente non commentiamo le decisioni delle agenzie di rating. Quello che posso dire circa il Portogallo è che i nuovi obiettivi riguardo i conti pubblici sono appropriati e ambiziosi. Le misure annunciate dal governo portoghese per quest'anno sono sufficienti, mentre per il prossimo serviranno misure ulteriori. Come detto, generalmente non commentiamo le azioni delle agenzie di rating. Recentemente si è discusso della necessità di regole stringenti per le agenzie di rating e si è anche avanzata l'ipotesi di un'agenzia europea. Io credo che ci sia bisogno di riflettere su questi aspetti. Ho l'impressione che le agenzie di rating spesso tendano ad amplificare le tendenze piuttosto che prevedere queste tendenze con un certo anticipo. Insomma, l'accusa, oltre all'eventuale conflitto di interesse, professor Perotti, dentro Standard & Poor's ci sono anche dei fondi, c'è il BlackRock, c'è l'Oppenheimer, dentro Moody's abbiamo personaggi, insomma, appunto, come Invesco, Wellington, Fidelity, Capital World Investor, insomma. Però l'accusa è di dire attenzione, dentro Moody's c'è anche Warren Buffett, quindi un grande investitore. E di dire, intervengono, buttano benzina sul fuoco. Se già la situazione è tesa, arrivano loro a dare un brutto voto e quindi peggiora la situazione. Non, hanno un fenomeno di... esasperano meccanismi e fenomeni già in atto. Secondo me bisogna distinguere due cose. Uno è quello che hanno fatto l'agenzia di rating con il debito sovrano, il debito dei paesi, dei singoli paesi, che ha attirato molta attenzione recentemente. E qui secondo me il bersaglio è sbagliato, perché le agenzie di rating hanno essenzialmente la stessa informazione che ha chiunque di noi che guardi, va su internet, guarda il debito pubblico sul PIL, deficit di bilancio sul PIL, essenzialmente crescita, queste sono le informazioni che hanno loro, che abbiamo anche noi. Quindi il fatto che faccia un downgrade di questo qual paese, se vogliamo credere alle loro stime, bene, se no siamo liberi di non crederci. Infatti, per esempio, oggi il mercato se n'è abbastanza infischiato del downgrading del Portogallo. Quello che è diverso invece è per le emissioni di aziende singole, aziende private. Qui sappiamo bene che le agenzie di rating hanno fatto di cotte e di crude nel passato, perché c'era di tutto e di più, c'erano conflitti di interessi, c'era l'interesse a non danneggiare l'azienda emittente, perché poi si sarebbe perso le loro commesse in futuro, e i risultati si sono visti con la subprime crisis negli Stati Uniti. Quindi bisogna distinguere questi due aspetti. L'altro aspetto di cui bisogna essere consapevoli è questa idea di rompere l'oligopolio. Questa è un'idea sacrosanta. Il fatto che ci siano solo essenzialmente tre troppo poche è un errore, perché tendono alla collusione con poi tutte e tre americane, insomma, quello secondo me non è poi tanto ma tendono a colludere con tutti i problemi ci sono con la collusione. La soluzione però non è un'agenzia di rating europea oppure cinese, cioè un'agenzia pubblica. Questa è un'idea folle. Come si può pensare che un'agenzia di rating pubblica sia più indipendente nel valutare il debito del Portogallo o della Grecia di quanto lo siano delle agenzie private? La soluzione è quella di incoraggiare altre agenzie private, non un'agenzia pubblica. Allora, sì, non sono tutte americane, Fitch non è solo americana, però se ho ben capito il suo ragionamento, lei dice, attenzione, quando giudicano i debiti degli stati, lì c'è il sospetto che poi Sarkozy, Berlusconi, la Merkel, Zapatero, a loro dia fastidio avere qualcuno che ti dice guarda che hai troppo debito, perché vorrebbero spendere senza avere contrasti, e questo è tipico della politica. Però quando invece hanno giudicato Parmalat, Enron e poi tutte le società, che Lehman Brothers, che poi abbiamo scoperto che fine hanno fatto, non hanno avuto il coraggio di dare il voto che si sarebbero meritati a queste società perché erano clienti delle società, delle agenzie, pagavano le commissioni e avevano paura di perdere un cliente. Quindi il vero problema, se ho ben capito il suo ragionamento, si pone più quando giudicano un privato che non quando giudichino un pubblico. Sentiamo cosa ci ha detto qualche settimana fa, due settimane fa, Maria Pierdicchi, numero uno di Standard & Poor's Italia, quando abbiamo chiesto insomma come si fa a declassare la Grecia in un colpo solo di tre livelli, creando il panico sul mercato, portando il debito greco a spazzatura, cioè decisioni un po' così repentine che lasciano perplessi. La risposta di Maria Pierdicchi. Io vorrei innanzitutto ricordare che il nostro lavoro è fornire opinioni sul merito di credito e ci rendiamo conto in maniera indipendente, non siamo nel mercato dei capitali, siamo solo il nostro lavoro, il nostro dovere è dare informazioni e opinioni agli investitori. Ci rendiamo conto che spesso le nostre decisioni non sono gradite agli emittenti, alle autorità governative, ma quando le nostre opinioni cambiano per il sopravvenire di fattori che portano a una modifica delle opinioni, è il nostro dovere darle al mercato senza né paura né atteggiamenti di favore. Allora, sulla Grecia bisogna ricordare che non è vero che tutto è cambiato solo in aprile. Noi abbiamo iniziato, Standard & Poor's ha iniziato a abbassare la Grecia nel 2004. In quel momento, tra l'altro, e per molti anni, il mercato ha continuato a apprezzare la Grecia come se fosse una tripla A, cosa che non è mai stata perché è stata per lungo tempo una singola A. Dopodiché abbiamo avuto degli altri abbassamenti. Nel caso di aprile noi abbiamo abbassato la Grecia a livello non investment grade perché abbiamo ritenuto che effettivamente le prospettive di crescita, cioè di forte deflazione a medio termine, non fossero più compatibili con un rating non investment grade, e quindi abbiamo incorporato le nostre revisioni a lungo termine, quindi non solo di quello che avverrà nei prossimi mesi, che abbiamo peraltro incorporato. Non è corretto dire che noi non abbiamo incorporato il piano di salvataggio, noi abbiamo assolutamente tenuto conto di quello, abbiamo detto che quel piano risolve i problemi di liquidità ma non risolve i problemi di solvibilità, cioè di una ripresa della crescita che noi non ci attendiamo fino al 2017. Allora, professor Perotti, ho un qualche minuto di meteo e pubblicità, poi vorrei concludere con lei con una domanda che mi girano gli ascoltatori al 349-238-6666. E mettiamola così: le agenzie di rating avranno anche conflitti di interesse, hanno i soci, sono americane, rappresentano Wall Street, hanno praticamente giudicano chi è il loro cliente, quindi hanno anche un interesse economico, visto che complessivamente i voti che danno vengono pagati 5 miliardi di euro in giro per il mondo. Però forse non è che i vari paesi, Cina, Europa, non vogliono essere giudicati, perché in questo momento è difficile fare politica senza risorse, però se tu aumenti il debito quelli ti bastonano, cioè non c'è un'insofferenza della politica contro il giudice esterno? La risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, prima di arrivare alla borsa, vorrei la risposta da professor Perotti. Con tutti i limiti, non voglio difendere l'agenzia di rating, ci mancherebbe, ma non è che la Cina voglia mostrare la sua potenza e quindi si mette a dare i voti agli altri, l'Europa vuole mostrare la sua potenza, la sua indipendenza, si mette a creare la sua agenzia di rating, cioè non è che ci sia un'insofferenza della politica e quindi possa aver ragione la dichiarazione di Maria Pierdicchi che abbiamo fatto ascoltare, numero uno di Standard & Poor's Italia. Insomma, diamo anche fastidio, e quello sarebbe un po' pericoloso, perché sappiamo che la classe politica, che la politica è una cosa troppo seria per essere lasciata solo ai politici. Professor Perotti. Sì, credo che ci sia molto di questo. Come dicevo prima, dobbiamo differenziare bene l'azione dell'agenzia di rating con il debito pubblico dei paesi sovrani e la loro azione con le aziende private. Ripeto, con le aziende private negli ultimi anni ne hanno fatti tutti i colori, ma in caso dei paesi, del debito dei paesi sovrani, credo che non ci sia nessun modo per attaccare quello che hanno fatto. Uno può dissentire dal fatto che Moody's è troppo severa con questo o quel paese, ma tutto quello che deve fare, se uno dissente da loro, è continuare a comprare il debito di quel paese. Moody è un insieme di persone che hanno deciso, sulla base di dati che sono accessibili a tutti, che secondo loro la Grecia merita questo tipo di voto. E ripeto, uno può dissentire. Il fatto che il mercato di fatto non dissenta, però è provato dal fatto che nessuno compra debito pubblico greco se non a tassi di interesse altissimi. Certo. E l'obiezione che però sono l'unico soggetto che dà i voti ma non è mai controllato, nessuno dà i voti a loro? Sì, ma anche qui cioè dai voti, ripeto, nessuno è obbligato a seguirle. A questi voti. Se io e lei vogliamo mettere su un'altra agenzia di rating, nessuno ci impedisce di farlo. Mm-hmm. E non credo che arriveremo a delle decisioni molto diverse da quella di Moody e di Standard & Poor's per la Grecia, perché il debito greco è chiaramente rischiosissimo. Che poi sia un grado in più o in su di quello che è andato loro, non credo che cambi molto. Il fatto è che è enormemente rischioso e la loro rating è semplicemente un riflesso di questo. Cioè lei dice, alla fine, se uno vuole comprarsi le obbligazioni greche, anche se Moody's o Standard & Poor's dice che sono praticamente sotto livello di investimento, è libero di farlo, poi si prende tutti i rischi del caso. Chiarissimo, e grazie anche a Roberto Perotti, che insegna macroeconomia alla Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie a lei, arrivederci. E adesso è il momento della borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, ciao. Allora, più 1,8% Francoforte, più 2% Parigi, più 1,80% Londra e ancora Milano, assolutamente in linea, più 1,6%. Che è successo? È più Alcoa o il fatto che il mercato scommetta che arriveranno nuove agenzie di rating europee molto più buone con gli europei, come i cinesi sono più buoni che i cinesi? Sì, allora, hanno influito diciamo una serie di fattori, tra cui i dati di Alcoa e le attese sulle prossime trimestrali americane, tra cui Intel stasera a borsa chiusa, l'attesa per gli stress test, ma oggi in particolare anche il buon andamento del comparto auto, che ha chiuso con un rialzo del 4,6% con BMW che ha guadagnato oltre l'8% dopo il rialzo delle stime sul 2010. Eh sì, infatti BMW ha guadagnato, è andata oltre ogni previsione e ha trascinato con sé il settore auto, perché da noi Fiat ha preso il 3,5%, immagino su questo. Sì, su questo. E su Chrysler forse anche, no? Sì, e poi anche sulle attese per i conti il prossimo 21 luglio, e gli investitori si aspettano anche novità, in quella data si aspettano novità sullo spin-off dell'auto, e le azioni stanno guadagnando anche da venerdì scorso, dopo la notizia relativa appunto alla decisione di dare il via libera all'accordo per la produzione della futura Panda a Pomigliano. Allora, ancora sui titoli, bene anche il settore costruzioni oggi, Buzzi Unice in più 3,4%, bene anche Luxottica più 3%, e Finmeccanica più 2,33%. Su Finmeccanica ascoltiamo quello che ha dichiarato entrando oggi al Forum Euromed Pier Francesco Guarguaglini, che è il numero uno del gruppo. Chiaramente qui la notizia è a cavallo tra, diciamo, è soprattutto in merito alla cronaca giudiziaria, alle ipotesi circolate di un rapporto tra Guarguaglini. Anzi, facciamo una cosa, lo ascoltiamo dopo il traffico, perché se no andiamo troppo in ritardo. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Abbiamo qualche problema a mandare in onda la voce di Guarguaglini, comunque la dico io. Ho detto semplicemente di essere sereno e tranquillo a chi gli ha chiesto com'è andata dopo l'incontro ieri, che è un incontro. È stato ascoltato per 2 ore dai magistrati romani nell'ambito dell'inchiesta su un investimento da 8 milioni e 300 mila euro sborsati da Gennaro Mokbel, ormai personaggio mitico, per l'acquisizione di quote di una società, la Digint, che era partecipata da Finmeccanica. Sereno e tranquillo, comunque il titolo immagino, Livia, che si muova su altri motivi, perché riconquista 9 euro per azione Finmeccanica, più 2,3%. Sì, in realtà secondo gli operatori le azioni hanno beneficiato a una parte delle attese per le future gare a cui potrebbe partecipare in Spagna la controllata USTA Vestran, e dall'altra anche delle scommesse sul possibile accordo con Mittel per la valorizzazione del portafoglio immobiliare, ma anche comunque delle dichiarazioni del numero uno Guarguaglini. Ancora sui titoli, oltre a Finmeccanica, bene le banche, Intesa San Paolo più 2,1%, E per quello che riguarda il mondo bancario, segnaliamo anche Popolare di Milano più 1,90, Ubibanca pure. E un po' più basso invece il rialzo di Unicredit più 1%, Monte dei Paschi più 1%, Banco Popolare più 0,90. Tra gli altri titoli, Bene Mediaset più 2,1, Telecom Italia più 2%, va vicino a quota di 1 euro per azione, Italcementi più 2, Parmalat più 2, Campari più 2, Saipem più 1,90 come Pirelli, l'1,80 lo guadagnano Ubibanca e appunto il Popolare di Milano, ma anche Ansaldo STS ed ST Microelectronics e A2A, Enel più 1,70, così rispondiamo a chi ci chiede i titoli energetici, Lottomatica più 1,60, Bulgari più 1,60 per cento. Domani, cioè Telecom sale, anche se domani c'è l'incontro tra governo e vertici Telecom e sindacati sui 3.700 esuberi in Telecom. Livia. Sì, il titolo ha registrato un buon andamento, quindi in linea bene o male con l'indice, e oggi sulle Sole 24 Ore vi è stata un'intervista da Antonio Migliardi, che è responsabile delle risorse umane di Telecom, e ha spiegato di non dubitare che alla fine la società riuscirà a trovare una buona soluzione per un problema serio, appunto, che è quello degli esuberi, ed essere consapevoli del fatto che questo tipo di problema va affrontato con le parti sociali e quindi con sindacati e governo, per cui probabilmente è stata interpretata come un'apertura. Comunque gli occhi del mercato sono puntati all'incontro di domani. E poi le banche, io questa cosa degli stress test non li possono far uscire un po' prima, ormai è il segreto di Pulcinella, perché anche oggi, se ho ben capito Livia, alcuni operatori devono avere qualche informazione, come sempre c'è qualcuno che le fonti le ha prima, si chiama asimmetria informativa, lo dice chi ha studiato. Fatto sta che c'è qualcuno che compra Ubibanca e anche Unicredit perché dovrebbero essere quelle uscite meglio degli stress test, ho capito bene? Allora, c'è sempre questa attesa per gli stress test, e in realtà un giorno si dice che appunto il comparto bancario salga perché queste attese sono positive, il giorno dopo magari il comparto bancario scende per le stesse attese che diventano invece negative. Comunque oggi ci sono una serie di operatori, cioè degli analisti, che dicono che Unicredit e Ubibanca sono le banche più affidabili, mentre il Banco Popolare e MPS sono le più deboli, anche se nel caso in cui superino gli stress test, e gli analisti comunque sono convinti che li superano, potrebbero guadagnare di più rispetto agli altri. Quindi in realtà ci sono indicazioni che sono... Sì, a me questa cosa fa impazzire, perché gli stress test nati per placare la speculazione, per dire adesso facciamo un bel test alle banche, le mettiamo sotto stress, vediamo come reagirebbero nel caso peggiore, nello scenario peggiore possibile, così placchiamo la speculazione. Beh, mo si sta speculando su come andranno, quasi scommettendo su come andranno gli stress test. È bellissima questa, forse devono farli uscire un po' prima invece che tenerci qui col fiato in sospeso, si fa per dire. Mediolanum è quella che guadagna meno oggi, più 0,3% come Geox, Snam più 0,4% come Fondiaria Eterna, migliori e peggiori. Stefanel continua l'aumento di capitale, più 34%, investimento e sviluppo più 30%, e poi Ross più 17%, Coin più 8,27%, BMW appunto più 7,80%, Louis Vuitton Moanesi più 6% e Casa Damiani più 6%. Fronte opposto, le buone società meno 2,70%, Telecom Italia media sul risparmio meno 14,9%, poca roba. Grazie e buona serata a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Allora, adesso vediamo se si scateneranno messaggi di carattere politico o invece di carattere più economico, perché oggi la Confesercenti e ISPO, che è un istituto di sondaggi, hanno fatto il terzo sondaggio sulla situazione economica e sociale del paese, chiedendo agli italiani se hanno la percezione che si sta uscendo dalla crisi e quindi insomma che la crisi un po' allenta la sua morsa, o se invece sono spaventati ancora dalla crisi, o se invece sono ancora più spaventati dalla crisi di prima. Allora, facciamo una cosa, visto che c'è il GR, si accettano messaggi, tranne chi sa già la risposta, per sapere secondo voi come hanno risposto nel sondaggio dell'ISPO, assieme a Confesercenti, quindi i commercianti, e gli italiani, se hanno risposto che sono un po' meno preoccupati, che sono preoccupati in maniera uguale, oppure se sono sostanzialmente invariati nelle preoccupazioni. Ma andate i vostri messaggi, poi appena torniamo in diretta alle 18:06 facciamo ascoltare il risultato del sondaggio e parliamo anche e soprattutto poi della finanziaria italiana che ha passato, per così dire, l'esame di Bruxelles. 349-238-6666, più preoccupati, meno preoccupati, preoccupati in maniera uguale. Poi vediamo la risposta. Diciotto e nove minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare tra un attimo anche della finanziaria italiana approvata da Bruxelles. Dobbiamo svelare il risultato del sondaggio che ha condotto l'ISPO per conto di Confesercenti sugli italiani e la crisi. Allora, la maggioranza dei messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 dicevano, hanno risposto che sono ancora più preoccupati, alcuni dicevano meno preoccupati, altri in maniera più mediana dicevano, beh, insomma, gli italiani si saranno abituati a convivere con la crisi. Hanno vinto, si fa per dire, quelli che stimavano una maggiore preoccupazione degli italiani. Allora parliamone. Il 93% degli intervistati si è dichiarato molto o abbastanza preoccupato, era il 91% qualche mese fa. Il 94% è preoccupato per il lavoro. Tra l'altro, la cosa che lascio così un po' più di incertezza è che a febbraio, cioè praticamente 5 mesi fa, la maggioranza, seppur risicata, degli italiani, il 51%, era fiduciosa che tra un anno la situazione sarebbe migliorata. Ora questa percentuale è crollata al 40%. È salita la quota dei pessimisti, quindi dal 36 al 51%. Voglio dire, questi sono dati inequivocabili, non buttiamoli in politica, lo dico anche a chi scrive. Gli ottimisti sono, tra gli ottimisti si vedono soprattutto giovani, gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Sul piano politico un 50%, cioè più forte la componente di ottimisti negli elettori di destra o di centro-destra. Quanto al lavoro, il 18% del campione ha risposto che un membro della propria famiglia ha perso il lavoro per colpa della crisi. Su questo il presidente della Confesercenti, che ha commissionato questo terzo sondaggio, e quindi Marco Venturi al microfono della nostra Chiara Grandis. C'è una forte preoccupazione ancora sul fatto che la ripresa si stabilizzi, c'è preoccupazione per il posto di lavoro, c'è preoccupazione per la crescita economica, quindi bisogna mettere in campo tutti quegli atti che servono a dare sicurezza, fiducia e stabilità all'economia del nostro paese. Quali sono le categorie più preoccupate, per esempio, dalla perdita del posto di lavoro? Intanto lavoratori dipendenti, ma anche le piccole imprese che hanno il timore della chiusura. C'è qualche segnale di ottimismo che arriva dal rapporto? Potrei dire quello riguardo il mondo delle piccole e medie imprese. Insomma, diciamo che in termini di fiducia siamo al primo posto. Probabilmente l'effetto di quell'accordo fatto di Rete Imprese Italia tra le associazioni delle piccole e medie imprese ha dato fiducia e prospettiva verso questo mondo. Voi avete anche analizzato il giudizio degli italiani dell'operato del governo. Com'è in questo momento? In generale non è che sia un giudizio esaltante, non lo è nemmeno per l'opposizione. Cioè c'è un atteggiamento di pessimismo complessivo, perché quando la gente ha difficoltà reali, quando ha timori soprattutto di perdere la sicurezza e il posto di lavoro, è chiaro che poi il giudizio è negativo, perché non si vedono atti decisivi ad invertire questa tendenza. Invece cresce la fiducia negli enti locali? Beh, gli enti locali sono più vicini alla gente, quindi risolvono i problemi direttamente di quotidiani delle persone, conoscono quindi direttamente chi governa il territorio, e quindi su questi c'è inevitabilmente più fiducia. Così il presidente di Confesercenti Marco Venturi sul sondaggio. Sempre oggi c'è un altro rapporto che ci interessa molto, è quello del Censis, che si chiama Dare casa alla sicurezza, in realtà sui collaboratori domestici. 2.400.000 le famiglie italiane che utilizzano i servizi dei collaboratori domestici. Sono per il 71% stranieri, in prevalenza dall'Europa però: Romania 20%, Ucraina 10%, Polonia 7%, Moldavia 6%, il 9% comunque sono filippini, 8 su 10 sono donne, una buona parte, la metà ha meno di 40 anni. E quello che ha colpito il Censis è che questi lavoratori sono in possesso di un buon livello di istruzione, addirittura il 6% ha una laurea e il 33%, uno su tre, ha un diploma superiore. Quanto vengono pagati? Vengono pagati cioè il 40% di questi collaboratori domestici, colf o non badanti che siano, non raggiunge gli 800 euro al mese. Ce n'è però anche un 14% che guadagna più di 1200 euro al mese, e qui vedo delle facce che si sorprendono anche di là dalla regia, e sentiamo su questo Giuseppe De Rita, che del Censis è presidente. Di questo fenomeno si possono mettere in evidenza tre asimmetrie. La prima asimmetria è quella delle competenze, cioè c'è gente che in fondo fa la badante da anni e sta dentro la realtà familiare, ma non ha nessuna competenza, per esempio, su un sistema elettrico, su un sistema delle scadenze dei cibi, sul fuoco, qualsiasi cosa. E questo naturalmente non è soltanto una simmetria che colpisce la badante, ma è anche che colpisce il datore di lavoro. Molto spesso l'anziano è più ignorante della badante, quindi c'è un problema di curare insieme un'incompetenza. La seconda cosa è una asimmetria, una diversità fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera, che è quasi insanabile, perché non si può pensare, come ad esempio per un lavoratore domestico italiano, che si possa recuperare un equilibrio dando più poteri al prestatore d'opera rispetto al potere del datore di lavoro, che è sempre maggiore. Qui il datore di lavoro è molto più potente perché è più debole il prestatore d'opera, perché non sa la lingua, perché non conosce le abitudini, non sa le leggi. La terza asimmetria invece è quella sostanzialmente umana. La lavoratrice badante sono delle persone che hanno dei problemi psicologici non indifferenti. Pensiamo a noi stessi, che faremmo vivendo 24 ore su 24 con una persona anziana, un po' fissata, un po' malata, un po' con la mania di persecuzione? Ecco, questa è una simmetria difficile. E poi la parte dei contributi: il 62% delle colf, delle badanti e quindi anche delle babysitter lavorano in nero con un'evasione contributiva parziale. 4 su 10 sono totalmente irregolari. Sentiamo la ricercatrice del settore lavoro del Censis, Esther Dini. Quello del lavoro nero continua ad essere una piaga del settore, per la natura del settore, per come per lungo tempo si è guardato a questa tipologia di lavoro, la cui regolamentazione è stata sempre un po' appunto lasciata alla spontanea iniziativa delle parti. Negli ultimi anni, grazie soprattutto poi all'esigenza di dover regolamentare i flussi di accesso di stranieri nel nostro paese, e sicuramente si è andati in direzione di una progressiva emersione di questa forma di lavoro. Vero è che le forme di irregolarità restano molto diffuse, parliamo di circa il 22% di lavoratori che sono totalmente irregolari, e di una quota altrettanto significativa, forse ancora più significativa, circa un 30% che, pur avendo magari un contratto, quindi parliamo di regolare versamento di contributi presso l'INPS, magari ciò avviene con una famiglia, ma poi svolgono delle ore di lavoro irregolare presso altre famiglie. Quindi lavoratori che vivono in una condizione di semi regolarità, di regolarità parziale. Fatto è che ad oggi la ricerca ci dice che su 100 ore lavorate solo per 44 avviene il regolare versamento dei contributi. Adesso il traffico, poi un rapido aggiornamento sul settore del turismo, sul settore alberghiero, e poi anche il collegamento con Bruxelles per vedere come è stata apprezzata, perché è stata apprezzata la manovra italiana, e anche qualche dichiarazione del ministro Tremonti. 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 20 minuti, allora un rapido aggiornamento sul settore del turismo e poi parliamo anche di conti pubblici italiani, perché oggi il rapporto di Federalberghi ha fatto registrare un calo del 3% degli occupati nei primi 6 mesi dell'anno nel settore alberghiero, crescita zero, le tariffe alberghiere da gennaio a maggio sono diminuite a livello nazionale dell'1% e appunto l'occupazione è in calo. Il presidente degli alberghiatori italiani ha detto, insomma, c'è un calo medio dei fatturati delle imprese tra il 5 e il 7%, e quindi ascoltiamo Bernabò Bocca, il microfono alla nostra Irene Privitera. Una fase di stagnazione per quanto riguarda le presenze alberghiere in Italia nel primo semestre rispetto al primo semestre dell'anno scorso, e in contemporanea però vi è un calo delle tariffe e dei prezzi medi degli alberghi, il che porta a una perdita di fatturato tra il 5 e il 7% rispetto all'anno scorso. Quali sono i dati relativi all'occupazione? Purtroppo da gennaio assistiamo a un calo costante dei posti di lavoro nel nostro settore. Siamo arrivati nel primo semestre a un calo del 3% sia di lavoratori a tempo determinato che di lavoratori a tempo indeterminato. L'incertezza che stiamo vivendo porta le aziende a rinviare le assunzioni il più possibile per non sobbarcarsi i costi fissi contro viceversa fatturati in dubbio. Allora, passiamo adesso ai temi dei conti pubblici italiani. Una risposta brevissima al 349-238-6666. No, i più ottimisti sulla crisi non sono stati, come alcuni di voi scrivono, i lavoratori dipendenti, il pubblico impiego, ma all'opposto, i giovani, gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Vabbè, mentre il governo ha a che fare con il flop, lo dice lo stesso ministro dell'economia Giuseppe Vegas, vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas, il flop della privatizzazione Tirrenia, nessuno la vuole comprare e non si capisce come venderla adesso. Oggi sono usciti alcuni dati sul debito pubblico italiano, ahimè in forte crescita nei primi 6 mesi dell'anno, ha toccato un nuovo record, 1.827 miliardi di euro, più 3,7%. Praticamente è aumentato di 66 miliardi solo da gennaio a giugno. È rallentato in compenso il calo del getto fiscale, nel senso che a maggio c'è stato un segno più dopo 4 mesi di segno meno, e nel frattempo a Bruxelles il ministro Tremonti ha partecipato al vertice Ecofin, quindi ministri economico-finanziari, ha detto, attenzione, insomma, la nostra finanziaria è ancora meglio di prima. La finanziaria, lo dico senza poi diciamo, vuoi far tirare la volata al governo? No, insomma, ci sono cose buone, le diciamo, sono cose che ci convincono meno, le diciamo. La finanziaria ha passato l'esame di Bruxelles, rispettate gli impegni, sentiamo su questo appunto il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Sull'Italia la valutazione è che sono state adottate misure effettive e adeguate, e questa è ragione per noi di particolare, come si può dire, è andata perfettamente in linea con gli impegni presi e con i calcoli fatti. Noi siamo sempre molto fair, però in modo informale su alcuni paesi è stato detto non siamo del tutto convinti. Alcuni altri paesi. E poi ha aggiunto Tremonti, non c'è stato nessun arretramento sui numeri, nessun arretramento sulle norme, anzi in alcuni casi la finanziaria è stata anche migliorata. E poi ha voluto chiosare, non era un refuso, non era un errore quell'emendamento che avrebbe elevato la soglia dei 40 anni per i contributi per la pensione. Antonio Poglio Salimbeni, che è corrispondente di Radio Cori, Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Mi incuriosisce, beh, la finanziaria, piaccia o non piaccia a chi scrive, Bruxelles l'ha apprezzata, la finanziaria di Tremonti. Ma sì, questo voglio, è chiarissimo, e quindi non stiamo tanto a ragionare di politica. Mi ha incuriosito quest'ultima frase del ministro Tremonti, quando dice noi siamo molto fair, siamo molto corretti, però all'interno della discussione abbiamo fatto notare che i bilanci, le manovre finanziarie di alcuni paesi non ci convincono del tutto. Quali sono questi paesi? No. No, beh, effettivamente è lo stesso Ecofin, che gli stessi ministri del Tesoro, che rilevano come ci siano alcuni paesi che hanno già dettagliato le misure finanziarie per riequilibrare i conti pubblici e altri che non l'hanno fatto. Tra i primi paesi naturalmente ci sono quelli più bersagliati dalla sfiducia, Grecia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Irlanda a suo tempo, eccetera. C'è anche l'Italia, perché la manovra finanziaria dettaglia appunto ciò che il governo intende fare per ridurre il deficit pubblico. Altri paesi invece non l'hanno ancora dettagliata, per esempio fra questi c'è la Francia naturalmente, quindi non è stato un rilievo italiano, bensì diciamo il portato e la conclusione di una discussione collettiva. Ecco, dalle dichiarazioni del commissario Olli Rehn, insomma, si è parlato anche del tema con cui abbiamo aperto, dopo la Cina anche l'Europa, la Banca Centrale Europea ha detto che bisogna rompere l'oligopolio delle agenzie che danno i voti ai debiti, le agenzie di rating. Se ne è discusso anche nel vertice Ecofin? No, di questo no, però questa è una discussione di lungo corso che è cominciata diversi mesi fa. Naturalmente anche i ministri finanziari europei stanno nella eterna contraddizione di criticare le agenzie di rating per il modo in cui hanno valutato i paesi per i loro conflitti di interesse fin dai tempi dello scoppio della crisi finanziaria di due anni fa, e d'altra parte la contraddizione sta nel fatto di doversi affidare alle stesse agenzie di rating nella valutazione del debito sovrano, della capacità di ripagamento di un paese, eccetera. L'abbiamo visto oggi peraltro con il caso portoghese, la riduzione di due livelli della valutazione da parte di Moody's del rating portoghese, insomma. Sì. Ecco, mi è sembrato, per concludere Antonio, comunque un vertice Ecofin un po' meno, però non vorrei sbagliarmi, un po' meno preoccupato di quelli degli ultimi mesi, quando c'era un'ondata speculativa su Spagna, Francia. Spagna, Portogallo e Grecia. Ma guarda, devo dire che nessun ministro ha voluto, né tantomeno Tremonti, ha voluto intervenire con valutazioni, commenti sull'attuale fase della ripresa. In realtà la vera preoccupazione di queste riunioni, ieri l'Eurogruppo e oggi l'Ecofin, era la questione degli stress test bancari, del modo di assicurare un'informazione trasparente. Sì, che fino adesso non c'è stata, perché la borsa sta scommettendo da giorni interi. Esatto. Qualcuno che stress test, esatto, potremmo dire. Esatto. Insomma, sono sicuramente molto stressati i ministri finanziari per questo stress test di cui ancora non si conosce il risultato. Di cui ancora la maggioranza degli operatori non conosce il risultato, qualcuno invece l'informazione ce l'ha perché sta comprando titoli bancari sulla scia di quello che dovrebbe essere il risultato di questi test sulla tenuta del sistema bancario. Lo trovo una cosa inaccettabile, ma comunque... Ne abbiamo viste anche altre. Grazie al corrispondente da Bruxelles di Radio Corriere Sole 24 Ore, Antonio Paolo Salimbeni. Grazie a voi. Anche siete molto più generosi con le finanziarie del ministro Tremonti che con quelle dell'allora ministro Padoa-Schioppa. Non ce la facciamo non andare in politica, nel senso che non è vero. Le finanziarie di Padoa-Schioppa le abbiamo criticate per altri motivi, per l'entità dei 40 miliardi, poi trovare 10 miliardi di tesoretto, insomma. Ma non voglio entrare in polemiche politiche, c'è un programma dopo il mio che invece vive, si bevera di polemiche politiche, di polemiche di ogni genere. Giuseppe Cruciani, buonasera. Eh sì, teatrino della politica soprattutto, il solito teatrino della puparo. Politica. Io sono il puparo del teatrino della politica, ma questa sera abbiamo un sindaco. Donna o uomo? Donna. Ma insomma, non è che del nord o del centro o del sud? Del nord. La Moratti. Beh, parlate sempre anche se risponde al telefono. Parlate anche dell'Expo, di questo arresto di oltre 300 persone dell''Ndrangheta che stavano cercando di mettere le mani sull'Expo. Queste sono cose importanti, magari parliamo di cose un po' meno importanti, il Monopoli, la corsa al nuovo Monopoli, la candidatura a sindaco di Milano che pure è importante, sai, l''Ndrangheta, queste cose complicate. Vuoi che dica il sindaco di Milano l''Ndrangheta, fanno bene ad arrestarli. Beh, insomma, sull'Expo qualcosa potrebbe dire. Oh, comunque. Sì, certo. Allora, ascolteremo l'intervista del sindaco Moratti tra pochi minuti, appunto, ammesso che risponda al telefono. Grazie Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Berisoni la Grudio, una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.